Son proletari, i partigiani, sono del popolo lavoratore. Un disfruttati, incatenati, oggi sono essi liberatori. La plebe si scuote, la plebe si desta, e la gran marcia segue con ardore. Contro il fascismo, contro il tiranno, combattono uniti i lavoratori. Contro il fascismo, contro il tiranno, combattono uniti i lavoratori. Povera Italia venduta ed oppressa, il tuo gran nome il fascismo giocò. Il grande popolo del sole e del canto, tallone tedesco nel sangue affogò. Sono oggi in piedi, son partigiani, che non dan sosta all'oppressore. Son tutti consci del gran domani, sarà la patria del lavoro. Son tutti consci del gran domani, sarà la patria del lavoro. Nella risaia e nell'officina, nella campagna e nel grande mare, regna il lavoro, già regna la pace, non più l'incertezza, dobbiamo tutti amare. Sventola il sole, la nostra bandiera, il grande simbolo del lavoro. Non mai più guerre, morta ai tiranni, vigili sempre il lavoratore. Non mai più guerre, morta ai tiranni, vigili sempre il lavoratore.